Conti fatti. La storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Le crisi e gli scenari di guerra che attraversano il mondo, dalla Libia all'Iran alla Siria, stanno di fatto ridisegnando gli equilibri geopolitici. Si assiste a un nuovo protagonismo da parte della Russia, ma anche della Turchia, con gli Stati Uniti che sotto la presidenza Trump stanno mettendo a dura prova la già precaria costruzione europea, sotto la minaccia di nuovi dazi, in risposta all'introduzione, peraltro ancora di là da venire, di una tassa europea sui profitti dei giganti del web. Uno scenario in costante e repentino mutamento. Come scrive Salvatore Sant'Angelo nella nuova edizione del suo libro pubblicato da Castelvecchi, dal titolo Gerussi all'orizzonte infranto della geopolitica europea, a 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, dalla sua fondazione nel 1993 fino al 2008, l'Unione Europea ha goduto di un periodo di prosperità senza precedenti, ma non ne ha approfittato per affrontare con decisione tutti quei nodi irrisolti che proprio la drammatica crisi del 2008 ha fatto esplodere con inaudita violenza, facendo rinascere quei nazionalismi che proprio l'idea federale voleva seppellire per sempre. Giornalista, professionista e docente universitario, Salvatore Sant'Angelo è esperto di politica internazionale e di storia del Novecento. Buonasera e benvenuto, anzi bentornato. Eccoci, buonasera e grazie ancora per l'invito. L'Europa e il mondo dovranno confrontarsi con una Germania che è tornata prepotentemente a guardare a est, verso la Russia. La dimensione geopolitica diventa fondamentale per capire questa dinamica e una disamina delle diverse fasi del problematico rapporto russo-tedesco deve prendere in considerazione i capitoli centrali di questa storia. Dall'alleanza dei tre imperatori, 1872-73-1881, fino ai grandi progetti di integrazione energetica, il Nord Stream e il suo raddoppio, passando per il Trattato di Rapallo del 1922, l'Operazione Barbarossa del giugno 1941, la catastrofe del Terzo Reich nel 1945, lo smembramento della Germania del 1949, la caduta del Muro di Berlino. Spingendo lo sguardo verso la grande crisi del 2008 e a quella dell'Ucraina del 2014, individuando così le fasi di continuità e discontinuità del rapporto. La nascita e il rafforzarsi di questa speciale relazione suscita più di una preoccupazione, specie in quei paesi che si trovano sulla direttrice geopolitica che lega Berlino e Mosca. Per esempio, a Varsavia e a Vilnius si è parlato del gasdotto Nord Stream e dell'ipotesi del suo raddoppio, come di una riedizione del patto Molotov-Ribbentrop. Ecco, allora, il rapporto speciale tra Germania e Russia, in che modo possiamo articolarlo, Salvatore, anche alla luce delle riflessioni e anche della tua riedizione del libro? Ma certamente è un rapporto che possiamo analizzare da un punto di vista controdeduttivo, perché la storia nella sua manifestazione ci parla di guerre, conflitti, scontri, ma in realtà sotto traccia possiamo individuare degli elementi che legano in modo indissolubile questi due paesi. Tra Mosca e Berlino ci sono stati scambi culturali, economici, organizzativi, tra diversi modelli, e oggi tutto questo è esemplificato dalla dinamica della dimensione energetica e che si sostanzia in questa grande infrastruttura strategica del Nord Stream ed oggi il suo raddoppio, che non a caso desta gravi preoccupazioni nell'Europa centrale, ma anche da parte degli Stati Uniti, che stanno mettendo in piedi un nuovo round di sanzioni che va a colpire questa, appunto, il raddoppio di questa infrastruttura strategica. E quindi ancora una volta la dimensione economico-commerciale a dominare anche i rapporti politici e geopolitici, se vogliamo, perché appunto se soffermiamo l'attenzione sul tema del raddoppio del gasdotto Nord Stream, capiamo che gli interessi in gioco qua sono notevolissimi. Interessi davvero importanti che creano una interdipendenza tra questi due paesi. Sullo sfondo c'è certamente anche questa proposta che vede tra la Germania tra i protagonisti del lancio di un Green Deal per cogliere le opportunità della trasformazione sotto la spinta incombente del riscaldamento climatico, dei cambiamenti che stanno che si stanno verificando, per cui questo nuovo progetto così ambizioso, di fatto riducendo il consumo di combustibili fossili, dovrebbe ridimensionare anche la dipendenza del nostro continente, in particolare della Germania, da partner e da condizioni geopolitiche instabili come quelle della Russia. Ma nel frattempo, visto che i tedeschi sono estremamente pratici, comunque stanno portando avanti quest'opera, come hanno già fatto nella realizzazione del primo tratto, lo fanno anche in vigenza delle sanzioni e in una condizione così complessa come quella del conflitto in Ucraina e dell'occupazione da parte di Mosca della Crimea. Ecco, ma il rafforzarsi di questo speciale legame tra Mosca e Berlino non rischia, secondo te, di dare il colpo definitivo alla già precaria integrazione europea? Ma diciamo che certamente potrebbe accadere una cosa di questo tipo. Diversi centri studi in Germania stanno analizzando l'evoluzione e anche i pericoli che rischiano di minacciare l'infrastruttura europea, e c'è un pezzo della classe dirigente tedesca che guarda con sempre maggiore diffidenza ai paesi latini dell'Unione e quindi all'idea di costruire una Kern Europa, un nocciolo duro dell'Europa che può costruire un rapporto, una relazione speciale con la Russia e non solo, ma guarda ad esempio con grande attenzione all'ipotesi della via della seta terrestre e a un rafforzamento dei rapporti verso la Cina. Quindi un nocciolo duro più coerente da un punto di vista culturale, economico e anche finanziario, in grado di giocare, diciamo, a 360 gradi. Invece c'è un'altra parte, anche diciamo in Germania, che vedrebbe un'Europa così monca e mozzata come una realtà troppo piccola per affrontare le sfide della globalizzazione, e quindi cerca di resistere alle spinte anche sovraniste e alle tentazioni di questo tipo che stanno emergendo nel ventre mediterraneo del nostro continente. Sì, e questo è un tema che ha a che fare col confronto tra l'Europa e gli Stati Uniti, anche perché stiamo vedendo in queste settimane con la cosiddetta web tax, per cui ogni paese, mi sembra, stia andando per proprio conto, e ogni paese alla fine prova a fare una trattativa separata con Donald Trump che minaccia sanzioni. Questo forse non è propriamente la strada da seguire, perché ci vorrebbe effettivamente una, se ci sarà mai, una tassa europea sui profitti dei giganti del web, ma europea, non francese, non italiana, non tedesca, se no gli Stati Uniti hanno già vinto, non pensi? Diciamo che nei confronti dei cosiddetti over the top si misurano proprio due aspetti di questa dinamica che stiamo provando a descrivere. Da un lato che le realtà nazionali sono troppo piccole anche per far valere il principio della sovranità rispetto a questi colossi del web. Dall'altra, in un momento dove ad esempio l'Europa è stata sanzionata dal WTO per i cosiddetti diritti di Stato nei confronti di un progetto come quello di Airbus, misuriamo anche una certa ambiguità da parte degli Stati Uniti, che hanno reso possibile la scalata di alcune loro realtà imprenditoriali appunto nel mondo del web, ma anche del complesso militare industriale, con un'infrastruttura dove l'aiuto dello Stato, la presenza molto forte, è diluita da una serie di contenitori che non rendono così evidente il nesso tra le due dimensioni. Quindi certamente l'auspicio è che l'Europa, proprio rispetto alle sfide che si stanno ponendo nella definizione di nuovi paradigmi economici globali, nell'esigenza di dover scalare queste posizioni creando delle imprese europee che possano giocare un ruolo di global player nei confronti di questi contesti, quella che in qualche modo lo stesso Putin ha definito il nuovo paradigma della geopolitica, della geoeconomia, che ha molto a che fare con temi dell'intelligenza artificiale e con il dominio rispetto alla dimensione digitale. Ecco, un'ultima questione vorrei trattare, che riguarda il protagonismo della Russia di Putin sugli scenari di guerra, se vogliamo, dalla Siria alla Libia. Ecco, questo secondo te come va letto, anche in relazione all'intesa che è stata raggiunta col nemico di un tempo che è Erdogan in Turchia? Sì, allora io innanzitutto direi questo, la Russia non è l'Unione Sovietica, non lo è per estensione, ma soprattutto per la capacità di declinare un portato ideologico che abbia una dimensione davvero globale. La Russia è, diciamo, quello che resta di uno spazio imperiale fortemente menomato, con profondissimi problemi di natura demografica, di industrializzazione, di sviluppo. Ha delle carte da giocare certamente nel campo energetico, nell'industria militare, ma sono assolutamente marginali rispetto a un mondo in profondissima trasformazione, dove la gerarchia tra i paesi viene scandita dal dominio rispetto ad altri contesti. Quello che fa Putin è giocare sia sul versante diplomatico ma poi anche sul campo le risorse che ha a disposizione, che sono estremamente limitate, per cercare strenuamente di difendere i propri interessi nazionali. Certo. Lo ha fatto in Ucraina, lo fa in Siria, dove non poteva perdere la presenza delle sue infrastrutture strategiche nello sbocco nel Mediterraneo, penso in particolare al porto di Tartus, e gioca questa partita cercando di risolvere un'equazione molto complicata, dove ci sono delle variabili, appunto, come il limite della capacità di proiezione di forza, il limite di bilancio, il fattore umano, ma dall'altra l'esigenza, appunto, di difendere estremamente questi interessi nazionali. Dalla loro hanno un personale politico di primo piano, certamente Putin, ma penso ancor più a Lavrov, che oggi sullo scacchiere internazionale può essere considerato come uno dei fuoriclasse della politica internazionale. Noi abbiamo esaurito il nostro tempo, grazie a Salvatore Sant'Angelo per essere stato con noi, grazie ad Alessandro Chiappini in regia e a Luca Cremonese in redazione. Cari ascoltatori, alla prossima settimana. Buona serata a tutti.